A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Ci fu il boato e ci fu poi il terremoto. Tremò la terra quel giorno intorno a Capaci e tremò l'Italia intera di scosse non ancora finite 20 anni dopo. Alle 17:58 del 23 maggio del 92 un cratere si aprì in quel tratto di autostrada intorno a Palermo, inghiottì l'auto in cui viaggiava Giovanni Falcone, la moglie e 3 agenti della scorta e ai bordi della sua voragine fece vacillare anche pezzi dello Stato. 57 giorni dopo un'altra scossa in via D'Amelio fece saltare in aria Paolo Borsellino e i 5 uomini che lo difendevano. Il paese vacillò in tutta fretta e elesse il nuovo Presidente della Repubblica, ma 20 anni dopo, da quelle voragini l'Italia non è ancora del tutto riemersa e tante ombre e sospetti si allungano sulla penisola, sullo sfondo delle indagini sulla trattativa tra Stato e mafia. 20 anni dopo però quel terremoto, come non accade quasi mai, i nomi di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino sono vivi e cari a più generazioni, mentre in vita furono attaccati e osteggiati. E allora da qui vogliamo partire in questa puntata di A ciascuno il suo con la custode principale della memoria di Falcone, la sorella Maria. L'eredità lasciata da Giovanni è veramente importante per i giovani ed è una eredità fatta di tanti valori fondamentali, come ad esempio soprattutto l'amore per la patria, il valore della democrazia, della libertà. L'eredità di Giovanni come magistrato antimafia diciamo ci ha lasciato il suo metodo, ed è un metodo fatto di un rigore eccezionale, un rigore ed un metodo che infatti l'ha trasformato, oltre che per la sua drammatica morte, nel simbolo della lotta alla mafia in Italia e non solo, se è vero che Giovanni Falcone è ricordato anche negli uffici dell'FBI. Ma ecco, prima di entrare ancora proprio nel vivo di questa intervista, vorrei chiederle un'altra cosa. Spesso il nome di suo fratello viene evocato proprio perché è il simbolo di colui che ha costruito questo metodo appunto nella lotta alla mafia, viene spesso evocato da una parte e dall'altra anche nelle polemiche che ciclicamente ritornano intorno ad alcuni aspetti della giustizia e delle normative riguardanti anche la lotta alla mafia, ad esempio anche di recente su tutte le polemiche intorno al concorso esterno in associazione mafiosa. Lei, secondo lei, pensa che anche i magistrati a volte usino, diciamo, un po' strumentalmente il nome di suo fratello? Le è mai capitato in questi anni di, diciamo, di arrabbiarsi, di intervenire quando ha sentito il nome di Giovanni Falcone citato in modo inappropriato? Che mi sia arrabbiata qualche volta, no, non c'è dubbio che tante volte il lavoro e le idee di Giovanni siano state storpiate, anche in questo non c'è dubbio. Però in linea di massima io ho ribattuto dicendo che Giovanni ha lasciato anche un'eredità di scritti che ci permettono di poter vedere realmente quelle che erano le sue idee. E soprattutto una fra le tante fondamentali, quella della professionalità. Lui metteva alla base di tutte le indagini, di qualsiasi procedimento, di qualsiasi processo, la professionalità del magistrato. Sappiamo che Giovanni Falcone, e lei stessa l'ha ricordato più volte, non ha lasciato, diciamo, scritti riguardanti i suoi processi, e questo anche alla luce un po' delle polemiche che c'erano state intorno all'interpretazione dei diari di Rocco Chinnici. Ma lei, ad esempio, ha un'idea di cosa potesse esserci invece in quel diario mai trovato di suo fratello, di cui Falcone aveva parlato anche ad amici? Questo è uno dei misteri 20 anni dopo, insieme ancora all'accensione dei suoi PC dopo la strage. Beh, io praticamente ho detto in questi anni quello che Giovanni ci diceva, che lui dopo lo shock di l'agenda di Chinnici non avrebbe mai scritto niente, perché le sue cose sarebbero state dopo morto magari male interpretate. E lui non le avrebbe potuto correggere. Questo era quello che ci ha detto in famiglia. Se poi nell'ultimo periodo avesse annotato qualche cosa è anche venuto fuori negli appunti che diede allora la Milella, c'erano degli stralci del suo pensiero, diciamo. Però io di questo non mi permetterei mai di dire qualcosa che non conosco. So che Giovanni ci diceva in famiglia questo, che mai ha voluto raccontarci cose particolari, ci ha tenuto lontano dai suoi processi anche per non metterci in pericolo. Quindi non pensa che quel diario possa essere qualcosa di simile all'agenda rossa di Paolo Borsellino? No, assolutamente no. Ecco, professoressa Falcone, veniamo appunto a 20 anni fa, a quell'attentatuni che fece tremare la Sicilia letteralmente e l'intero assetto del paese, se è vero, come ritengono ancora oggi molti magistrati, che quell'attentato doveva avere anche finalità eversive. Lei è la sorella appunto di Giovanni Falcone, sì. E come considera, come valuta l'ipotesi di chi indaga che anche dietro la strage di Capaci, come quella di Via D'Amelio, ci possano essere state delle menti raffinatissime, per dirla secondo una celebre definizione che Giovanni Falcone riferì al fallito attentato della Daura? Mi rendo conto. E voglio far valutare una cosa in particolare. Giovanni poteva essere ucciso a Roma in maniera molto più semplice. Già c'era un comando che a quanto pare doveva ucciderlo a Roma e poi viene richiamato. Qual era il motivo di dare all'attentato quella spettacolarità che poi viene data con l'attentato di Capaci? Uno spettacolo di una forza e di una dirompenza impressionante. Quindi mi convinco che proprio ci fossero già le basi per cominciare a creare una possibilità di trattativa. E ora, sia pur così tanti anni dopo, altre piccole tessere si aggiungono nelle indagini ancora aperte. C'è anche il pentito Spatuzza che, dopo essersi accusato di aver rubato la macchina usata per la strage di Via D'Amelio, ora si attribuisce un ruolo anche nella preparazione della strage di... Avuto giustizia, essendo ormai in carcere tutti i grandi latitanti di Cosa Nostra, l'unica pace, la vera giustizia sarebbe, se ci sono, se i giudici, se i magistrati me lo diranno, se c'era quella convergenza di interessi di parte della politica, di alcuni soggetti di grossi poteri finanziari o di servizi deviati o altre motivazioni politiche che potevano portare a una instabilità nel nostro paese, beh, questo non posso essere io a dirlo. E guardi, le dico in tutta sincerità che sarei molto più contenta di sapere che Giovanni è stato ucciso soltanto da mano mafiosa. Sarebbe più rassicurante. Più sopportabile che piuttosto che sapere che parti dello Stato lo avevano tradito mentre lui lavorava proprio per il bene dello Stato stesso. Sto scoprendo cose importanti, altro che Tangentopoli. Sul campetto di calcio, dove da bambino aveva giocato con l'amico Giovanni, Paolo Borsellino affidò questa confidenza a Maria Falcone, sorella del giudice, dopo la sua morte. Stava arrivando alle menti raffinatissime di cui parlò già il giudice. A ciascuno il suo. Gli uomini passano, ma le idee camminano sulle gambe di altri. Fu soprattutto dopo la strage di Via D'Amelio che Maria Falcone si decise a mettere in pratica una delle massime del fratello Giovanni, avviando il lavoro della fondazione. Fu soprattutto allora, quando sembrava che tutto fosse finito, che volle proseguire in altro modo quella battaglia per la legalità che era costata la vita a tanti, dopo aver già condannato soprattutto il fratello ad anni di attacchi e tradimenti. E da qui allora riprendiamo questa puntata di A Ciascuno il Suo con Maria Falcone. Giovanni l'ha vissuto in tanti momenti, tanti tradimenti, l'hanno pure definito come l'uomo che ha subito un maggior numero di sconfitte. Quelle lacrime, anche se non le ha mai mostrate in famiglia perché facevano parte del suo carattere, chiamiamolo così, duro all'esterno, il suo interno, nel suo cuore, ha pianto tanto in quegli anni. Fu Ilda Boccassini quella che più di tutti lo definì il magistrato che ha avuto e ha vissuto quante più sconfitte e tradimenti, e soprattutto fu Ilda Boccassini anche a puntare il dito in modo più esplicito contro i suoi stessi colleghi, proprio per quella solitudine vissuta da Giovanni Falcone. Ma anche Paolo Borsellino, in quei drammatici 57 giorni, parlò di un Giuda nella categoria dei magistrati dopo la strage di Capaci. Ecco, questa solitudine e tutta questa situazione che viveva anche di ostilità da parte dei suoi colleghi, questo isolamento, Falcone lo raccontava in qualche modo anche in famiglia? Questo sì, alcune persone, di cui non dirò il nome perché non ho prove, li chiamava addirittura i serpenti. I serpenti, perché iniettavano veleno contro di lui? Sì, serpenti, perché agivano in silenzio, facendo venire fuori quella gran massa di veleno e di invidia che era proprio di... Ed è un'espressione simile a quella usata da Paolo Borsellino, che a proposito della procura di Palermo parlò di un covo di vipere. Ecco, visto, ci ritroviamo benissimo nella definizione. In quei 57 giorni lei, professoressa, ebbe modo di incontrare e di parlare anche con Borsellino? Beh, io ho parlato con Paolo proprio soprattutto, è venuto a casa mia assieme allora al presidente Cossiga, poi ci sentivamo e l'ho visto per il trigesimo della morte di Giovanni, quando mi portò in un campetto di calcio che era vicino alla chiesa di San Francesco, dove era stata detta la messa, e mi disse: qua giocavamo a calcio. E in quell'occasione mi disse di stare tranquilli, che stava scoprendo delle cose importantissime, e disse anche la frase: ma che Tangentopoli e Tangentopoli. In che senso? Cioè, erano molto peggio di Tangentopoli. Tutto quello che lui stava scoprendo, sì. E lei pensa oggi, alla luce di quello che è venuto fuori poi, che fosse collegato anche alla trattativa tra Stato e mafia? Ma a questo punto penso di sì. Perché queste sono quello che anche le indagini di Caltanissetta e Palermo sembrano, diciamo, tracciare ormai con questa certa... temi io non posso dare mie opinioni personali, devono essere i magistrati a dirlo, ma sicuramente Paolo era in quel momento, io ero anche prima della sua morte, difatti io non avevo nemmeno pensato minimamente di poter fare un'opera, un lavoro per portare avanti le idee di Giovanni. È proprio la morte di Paolo che mi dà l'input per fare qualcosa, perché in quel momento ho pensato che tutto il loro lavoro era stato quasi quasi inutile. E però poi lei racconta spesso che ora, da questi incontri con i ragazzi e anche dai tantissimi che arriveranno intorno all'albero di Falcone per il 23 maggio, riceve, diciamo, la testimonianza di come effettivamente gli uomini passano, come diceva Falcone, ma le idee camminano sulle gambe di chi viene poi, giusto? Questa sete di valori in tanti giovani c'è, in molti che non riescono a trovarli, poi troviamo anche tante forme di sbandamento della nostra gioventù, ma gran parte dei giovani nostri, della nostra gioventù sana, ha bisogno di punti di riferimento, e credo che in Giovanni, in Paolo, in tutti quei ragazzi che della nostra Polizia di Stato, dei nostri carabinieri, che negli anni sono caduti per tutti noi, ecco. Come mi ha detto l'altro giorno un ragazzo, io quando sono venuta a Palermo l'anno scorso mi sono sentito libero di sognare. È una bellissima espressione. Avviandomi verso la conclusione, vorrei chiederle altre due rapide cose. La prima è se secondo lei, alla luce proprio di tutto questo che stava dicendo, l'antipolitica, che sembra essere abbastanza dilagante, può in qualche modo, diciamo, andare a minare anche questa sensazione di partecipazione alla lotta alla mafia che invece c'è in tanti ragazzi? È proprio lo scontento dei ragazzi nei confronti della politica li porta invece ad amare di più quelli che sono dei simboli di onestà, di rettitudine, quindi l'attaccamento a questi uomini, a questi nostri eroi moderni, non può essere intaccata dall'antipolitica. Ma lei anche per questo non ha voluto alle cerimonie per l'anniversario il presidente Lombardo? Io non l'ho voluto perché in un posto che è un luogo sacro dove si ricorda la memoria di uomini morti per mano mafiosa non possono esserci politici che sono sospetti di avere avuto rapporti con la mafia. L'ultima cosa che vorrei chiederle è un'immagine, diciamo, diversa di Giovanni Falcone, di cui abbiamo scoperto nei racconti che le persone a lui più vicine in questi anni hanno fatto, anche delle sue collezioni personali, l'amore per le penne stilografiche e anche delle paperelle in terracotta, giusto? Le penne erano per lui proprio un piacere fisico quasi, perché le cambiava. Giovanni scriveva tutto molto, ho ancora stampati dei verbali di Buscetta, sono tutti scritti a mano da lui, ho riconosciuto proprio la sua calligrafia, quindi aveva un grande amore per le penne stilografiche, le puliva, insomma, questo è un piacere che aveva. Per le papere no, la papera è una raccolta che è cresciuta anche perché tutti gli amici ogni qualvolta partivano gliele portavano una. E nasce dal fatto che lui spesso diceva che le papere possono essere fatte, gli errori possono essere commessi, l'importante è riconoscere quegli errori e riparare le papere. A ciascuno il suo finisce qui. Per riascoltare tutte le puntate, www.radio24.it nella sezione podcast. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce, sul blog Storiacce, mentre su Twitter l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, al prossimo weekend!